Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quella di oggi non è solo una puntata speciale nella quale si celebra un grande successo di un italiano al di fuori dei confini nazionali. Quello di oggi è il racconto di un sogno. È un racconto che piacerà anche alle donne che proverbialmente si mettono in fuga quando gli uomini parlano di calcio. Bene, questa è una puntata anche per voi, perché noi raccontiamo una favola incredibile con un lieto fine altrettanto incredibile, su una storia alla quale all'inizio credeva un uomo con i suoi 20 ragazzi. Piano piano questo sogno ha iniziato a coinvolgere una città e poi tutto un paese, l'Inghilterra, e poi tutto il mondo calcistico. Riviviamo un sogno nato in provincia, in una città nel cuore dell'Inghilterra, che in 132 anni di vita non ha mai vinto un campionato. Bene, questa squadra, grazie a un italiano, ha raggiunto un obiettivo che era veramente considerato un'assurdità, e ne parleremo a lungo. Parliamo del Leicester, neo campione d'Inghilterra, e parliamo del suo allenatore, Claudio Ranieri. E questi sono il popolo del Leicester, i tifosi che celebrano Claudio Ranieri sulle note, naturalmente, di Nel blu dipinto di blu. Un uomo che ha fatto arrivare lo scudetto in provincia, lontano da Manchester, da Londra, da Liverpool, con una squadra che ha un proprietario thailandese dal nome impronunciabile, non tento neanche di dirvi come si chiama, una squadra che l'anno prossimo giocherà in Champions League. È una storia per certi versi simile a quella vissuta da Bagnoli con il Verona dello scudetto dell'85 e altri scudetti come il Cagliari, la Sampdoria, però quelle erano squadre che in qualche modo per qualche anno cominciavano a affacciarsi ai primi posti in classifica. Qui invece stiamo parlando di una squadra, il Leicester, che l'anno scorso ha rischiato la retrocessione e si è salvato solo nelle ultime partite di campionato. Mi ricordo il primo incontro col presidente quando sono arrivato a Leicester nell'estate del 2015. Le sue parole furono: Claudio, questo è un anno molto importante per il club. Per noi è fondamentale restare in Premier League. Dobbiamo salvarci. La mia risposta fu: ok, sicuro. Lavoreremo duramente sul campo per raggiungere questo traguardo. 40 punti, quello era il nostro obiettivo. 40 punti, un obiettivo difficile da raggiungere per una squadra che l'anno precedente si era salvata per il rotto della cuffia, con una rosa di giocatori di medio-basso valore. Ranieri lo sa, a lui non interessa però avere dei grandi nomi, lui vuole compattare un gruppo. Gli acquisti sono pochi, a parte Inler che arriva dall'Italia e gioca anche poco. Ci sono Kanté, c'è questo giapponese Okazaki e c'è un folletto alto 1,80 m che pesa 60 kg che si chiama Marez. Con questo gruppo nasce una nuova avventura e oltretutto ci sono dei giocatori da motivare. Per esempio c'è un signore che si chiama Jane Vardy, ha 29 anni, arriva dalle serie inferiori, è uno che qualche anno fa ha giocato con il segnalatore elettronico per quelli che hanno un conto da regolare con la giustizia. Insomma, uno che sembrava destinato a una carriera di secondo o di terzo piano. Bene, questo Vardy diventa un giocatore di prima categoria, comincia a segnare e soprattutto entra nel giro della nazionale inglese e debutta con un meraviglioso gol di tacco. Insomma, cambia tutto, il gioco cambia e Schmeichel, il portiere, è uno che l'anno scorso prendeva la palla e aspettava più tempo possibile. Oggi Schmeichel è quello che lancia l'azione e il Leicester cambia mentalità gioco. Ma veniamo al nostro eroe, quello che compatta questo gruppo, che dà un'identità e un gioco al Leicester, Claudio Ranieri. E lui è un calciatore, un centrocampista discreto dai piedi non particolarmente buoni. Nasce a Roma, quartiere Testaccio, esordisce in Serie A nel 72 con un allenatore di cui abbiamo anche parlato diffusamente Elenio Herrera. Insomma, inizia subito a capire che cosa può essere un allenatore che cambia il destino di una squadra. Mi ricordavo quello che faceva fare Herrera a noi qui a Roma, no? Herrera ogni mercoledì portava la squadra a fare le amichevoli intorno a Roma, proprio per entusiasmare la gente, per farla venire sempre più vicina alla squadra. E noi ogni mercoledì, ogni giovedì andavamo nei dintorni di Cagliari a fare le amichevoli e aprimmo, io non so quanti club ho inaugurato nei dintorni di Cagliari e tutto, e la gente piano piano veniva allo stadio e riuscimmo a riempire il Sant'Elia. Così la carriera del calciatore Ranieri prosegue senza sussulti e le ultime stagioni sono a Catanzaro, Catania e Palermo. E vicino a Catanzaro lui vive la prima esperienza da allenatore alla Vigor Lamezia e poi va a Cagliari. 3 anni bellissimi in cui la squadra parte dalla Serie C e arriva in Serie A contro ogni aspettativa. Il primo piccolo grande miracolo. Per ora i miracoli di Ranieri sono promozioni con squadre minori oppure salvezze conquistate per il rotto della cuffia. È sempre un nuotare controcorrente, però, con la pressione dei giornalisti che è presente ma non ti porta ai vertici, con la possibilità di lavorare sempre sul carattere dei singoli giocatori, perché quando c'è da lottare per salvarsi la differenza la fa il carattere. Il falco e il gabbiano. Ma il destino di un allenatore, a meno che tu non ti chiami Ferguson, è quello di cambiare squadra spesso, sia che le cose vadano bene, sia che le cose vadano male. E così dopo il Cagliari, il nostro protagonista Claudio Ranieri va prima al Napoli e poi 4 anni a Firenze, dove parte dalla Serie B, conquista la promozione e arriva nella zona alta della classifica, vince una Coppa Italia e nel 96 la Supercoppa Italiana. Poi nel 97 un'altra svolta del destino, un colpo d'ala, si va in un altro paese, si va in Spagna. Devo dire che furono amabili, determinati i dirigenti del Valencia, perché io mai e poi mai pensavo di lasciare l'Italia, un po' tutti noi all'inizio siamo un po' tra virgolette provinciali, perché prima eravamo proprio pochi, per cui come me e tutti gli altri, io non volevo andare, ma questi mi martellarono 2 giorni e evidentemente avevano avuto il compito di non venir via da Roma senza di me. E così la Spagna, nella quale c'è questo duopolio che dura da decenni, Barcellona-Real Madrid, ospita Ranieri al Valencia. E il Valencia vince la Coppa del Re, si qualifica per la Coppa UEFA, insomma ottimi risultati, poi 8 mesi con l'Atletico e poi arriva una telefonata, un altro colpo d'ala. Siamo nel settembre del 2000 e la telefonata arriva da un quartiere di Londra, Chelsea. Una squadra blasonata che ha vinto sempre molto poco, con un clima completamente diverso. L'ambiente è semplice, è distaccato, l'attenzione dei media si concentra nelle interviste del dopo partita, però non si parla per tutta la settimana di arbitraggi, non si simula, è un gioco, è un calcio completamente diverso. Insomma, probabilmente un ambiente ideale per instaurare con i giocatori un rapporto amichevole, disincantato, paterno, alla vecchia maniera, per trovare una continuità che può servire a ottenere risultati. Nel calcio c'è sempre da migliorarci, c'è sempre da imparare da tutti e io sono un allenatore così, voglio sempre essere alla ricerca del meglio, di quello che si può migliorare. Sono un puntiglioso, voglio sempre il massimo dai miei giocatori, dal mio staff, dallo staff medico, dallo staff tecnico, dai giocatori, da tutti quanti. I suoi maestri sono stati Elenio Herrera, forse anche Gianni Di Marzio a Catanzaro. Insomma, Ranieri instaura con i suoi giocatori un rapporto particolare che non deve essere di silenziosa sudditanza. Ranieri vuole compattare un gruppo, l'importante è divertirsi, perché in fondo i giocatori sono dei ragazzi e poi ci sono dei giovani da scovare, magari da catapultare in prima squadra. 4 anni a Chelsea a lavorare su una squadra che è tutta da costruire. C'è anche qualche italiano, c'è Cudicini in porta e poi c'è Zola, poi c'è un francese campione del mondo, Desailly, insomma c'è molto da lavorare. I risultati sembrano essere a lungo termine, non nell'immediato. Sesto posto il primo anno, quarto posto il secondo e poi un secondo posto in campionato alla fine del 2004. Insomma, una salita continua ma troppo lenta. La stampa inglese dà un soprannome a Ranieri, Tinkerer, che vuol dire lo stagnino, quello che si aggiusta, quello che si arrangia. Viene contestato per essere indeciso sulla formazione da mandare in campo. Insomma, il Chelsea nel frattempo vuole fare il grande salto, sta per arrivare una nuova proprietà e la nuova proprietà arriva dalla Russia nel 2003. Abramovich rileva la squadra per 60 milioni di sterline. Il giorno in cui io da Roma in macchina facevo la strada per iniziare il ritiro e stavo tornando a Londra, mi chiamò l'amministratore delegato e mi disse: guarda, abbiamo venduto la squadra ad un russo, si dice che è un uomo ricchissimo. E lui era contentissimo, no? Diceva: vedrai che lavoro faremo. E io gli dissi: dico, guarda che il primo a saltare sarai tu e io sarò il secondo. Dico, perché se arriva un presidente nuovo ci fanno fuori a tutte e due. E lui restò 3-4 mesi, io restai un anno. Eh sì, perché Abramovich i soldi li ha, li spende, ma è uno abituato a vincere, che non ha voglia di farsi dire di no, e spende tanto, alla faccia anche di un fair play finanziario di cui ancora non si parla. Insomma, bisogna prendere l'allenatore più desiderato e più pagato da tutti. E così Ranieri deve fare le valigie e a Chelsea arriva Sua Maestà José Mourinho. Mourinho ha vinto tutto in Portogallo con il Porto, campionato e Coppa dei Campioni, e a Londra trova una squadra forte, un gruppo unito e poi i rinforzi che Abramovich gli compra. Qualsiasi desiderio esprima Mourinho, il russo lo asseconda. Quindi trova da un lato una squadra già pronta per il grande salto che ha preparato Ranieri e poi una serie di acquisti a milioni di sterline. Tra i due allenatori inizia un rapporto controverso, sono troppo diversi, un rapporto fatto di dichiarazioni, botte e risposta, insomma terreno fertile per le polemiche dei giornalisti, anche perché Mourinho e Ranieri avranno modo di rincontrarsi in Italia. Il Chelsea con José Mourinho vince due scudetti consecutivi, fallisce il terzo per un soffio, e Ranieri invece torna a Valencia, viene esonerato e quindi in qualche modo i colpi d'ala in questo momento stanno andando verso il basso. E poi dall'Italia arriva una telefonata, è il momento di rimettersi in pista, si torna a casa in provincia a Parma. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia, o meglio, la favola di Claudio Ranieri, l'uomo del miracolo, l'uomo che completa una incredibile cavalcata verso la vittoria del campionato dell'Leicester, una squadra che non aveva mai vinto nulla in 132 anni di storia, una squadra costata pochissimo e che si stringe attorno al suo condottiero, l'uomo che arriva da Testaccio, una favola di provincia di cui Ranieri è l'artefice al di là di tutte le aspettative. E all'Leicester Ranieri è arrivato in sordina, perché dopo il Parma è stato alla Juventus, poi è stato alla Roma perdendo uno scudetto in volata proprio col suo rivale Mourinho, è stato addirittura anche all'Inter ma non è riuscito ad arrivare a nessun grosso risultato. E sì, ha vinto i derby a Milano come a Roma, però le squadre di Ranieri sono sempre state definite delle grandi incompiute, un crescendo continuo sempre senza il gran finale, un perdente di successo. Uno come Mourinho, per esempio, non è uno che si tiene dentro quello che pensa e riserva a Ranieri una delle sue note stilettate. Non ho mai detto di essere un fenomeno, però non è certo colpa mia se nel 2004, dopo essere arrivato al Chelsea e aver chiesto perché stavano cambiando Ranieri, mi hanno risposto che volevano vincere e che con lui non sarebbe mai capitato. E così Mourinho lo batte Ranieri, lo batte alla Juve, lo batte alla Roma, lo scambio di battute è sempre piuttosto acido, i due allenatori messi a confronto si lasciano ancora scappare qualche frase di troppo, devo dire soprattutto da parte di Mourinho. E il 2010, scudetto vinto dall'Inter sulla Roma di Ranieri in volata, vittoria di Coppa Italia dell'Inter sulla Roma di Ranieri, e insomma per il nostro eroe Claudio Ranieri sembra arrivato quasi il momento del pre-pensionamento. E invece arriverà la vendetta, arriverà per esempio nel 2015, perché il Leicester va a vincere 2-1 proprio con il Chelsea allenato da Mourinho, e accompagna questa partita lo Special One verso un clamoroso esonero. Ma raccontiamola dall'inizio, l'avventura del Leicester. Il 13 luglio 2015 il club annuncia di avere ingaggiato il tecnico del testaccio perché vuole salvare la squadra dalla retrocessione. Ranieri aveva allenato anche il Monaco nel frattempo, poi aveva avuto dei risultati pessimi con la nazionale greca, un punto in 4 partite e subito l'esonero. All'annuncio dei dirigenti inglesi dell'ingaggio di Ranieri, Gary Lineker, uno dei grandi eroi perché iniziò la sua carriera all'Leicester e si è sempre dichiarato tifoso del Leicester, bandiera della squadra dal 78 all'85, scrive un tweet che fa molto ridere, vi letto oggi. Ranieri, davvero? È una scelta banale, è incredibile come i soliti vecchi nomi trovino posto nella giostra delle panchine. E nei mesi successivi Lineker, come tutti i grandi uomini, ammette il suo errore, tira fuori l'anima da tifoso, viene conquistato anche lui dalla modestia di Ranieri, dal suo atteggiamento cauto, sorridente, da un atteggiamento molto diverso da quello di molti suoi colleghi. Il Leicester inizia il campionato bene, combatte, le volpi non mollano mai, è il motto della squadra. Sembra una stagione nella quale il Leicester è destinato a salvarsi con grande tranquillità. Marezzi ispira, Vardy segna anche Marezzi e Vardy ispira, e insomma la squadra parte molto bene, soprattutto all'attacco. La difesa all'inizio della stagione tentenna, vacilla, e quindi tutti pensano che, forse Ranieri compreso, che quando la forza offensiva comincerà a avere un ciclo negativo arriveranno le sconfitte. Ranieri la butta sul ridere, invece di massacrare la squadra con super allenamenti, con tattiche esasperate, promette ai giocatori di offrire una pizza a tutta la squadra se riusciranno a non prendere gol nella partita successiva. Leicester Crystal Palace 1-0, la squadra va in pizzeria e ogni giocatore in pasta prepara la sua pizza, scena divertente che la televisione ripropone con un immancabile sottofondo musicale a tarantella. Insomma, anche cose come queste servono per compattare un ambiente, per fare entrare la squadra nel cuore dei giocatori e dei tifosi. To run, and Vardy goes first time and scores a stunner. Leicester's very own fantastic Mr. Fox, even by his standards. E arriviamo a febbraio, 2 febbraio 2016, Vardy segna un gol capolavoro al Liverpool. Insomma, il girone d'andata si chiude con la squadra che è nel gruppo di testa e comincia a attirarsi grandi simpatie il Leicester, perché è una squadra simpatica, perché è bello tifare per Davide contro Golia, e Claudio Ranieri comincia a diventare un frontman sorridente, simpatico, con quel suo inglese un po' incerto, che però non gli impedisce di tenere testa ai giornalisti. Si ride nelle conferenze stampa, arrivano addirittura delle salsicce cucinate da un ristoratore che ha creato le salsicce alla Ranieri, l'allenatore naturalmente le divide con i giornalisti, insomma tutto diverso dalle infuocate e velenose conferenze stampa italiane. Claudio, 2 weeks ago I told you about the Ranieri sausage. Yeah. Our friends from W. Archer Butchers, local butchers, are hopefully coming through the door now. Brew the sausage. We have, Claudio. How many? Plenty. Enjoy the Ranieri sausage, Claudio. Oh, thank you. Thank you, thank you. Also to my sharks, huh? Yeah, thank you to my sharks. Okay, thank you, thank you. It's amazing, amazing. And also, hey, man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. Eh sì, nascono canzoni, tormentoni, dilly ding dilly dong diventa un rap, un video virale, è un'altra frase nata da una conferenza stampa e in cui sembra che Ranieri ogni tanto dia la sveglia ai giocatori meno attenti con una campanella. E intanto il Leicester continua a vincere, il gruppo di testa si assottiglia, rimangono temporaneamente l'Arsenal e il Manchester City, poi rimane solo il Tottenham, e poi il Leicester comincia a ottenere la matematica certezza di essere in Champions League, e già sarebbe un miracolo incredibile. Sentite come Ranieri commenta questa notizia in conferenza stampa. Hey man, we are in Champions League. We are in Champions League, man. That was my next dilly question. Dilly don, come on. You forget, you speak about blah, blah, blah, but we are in Champions League. That's what my next come question. On, man. How big an achievement for oh, you. Oh, it's fantastic, it fantastic, terrific. Well done to everybody. The owners, the fans, to the players, the staff, everybody, everybody involved. And now we go straight away to try to win the title. Yes, yes, man. Passa marzo, passa aprile, Leicester è sempre al comando e finalmente, in concomitanza con il pareggio contro il Manchester United, il Tottenham va a pareggiare a Chelsea in una partita rocambolesca. Quindi proprio il Chelsea, la prima squadra inglese di Ranieri, regala lo scudetto matematico al Leicester. Stiamo parlando di una squadra che all'inizio dell'anno veniva data 5.000 a 1. Giocando 10 sterline ne vincevi 50.000. Per farvi capire, veniva dato a meno il fatto che Bono degli U2 diventasse papa, oppure che Elvis Presley ricomparisse dichiarando che non era vero che era morto. Questo per dirvi le probabilità che aveva il Leicester di vincere il campionato. E poi c'è la festa con il sindaco della città che promette una via intitolata a Ranieri e a Vardy e agli altri giocatori che hanno fatto parte di questa avventura, bambini che vengono chiamati Claudio, una città intera che si stringe attorno ai suoi eroi, a Okazaki, a Vardy, a Marez, alla difesa, a Uth, a Morgan, giocatori che erano stati in gran parte scartati dalle altre squadre. Poi c'è Schmeichel, il figlio del grande Schmeichel che vinse gli europei con la Danimarca. E insomma, una città che impazzisce e vive sensazioni che difficilmente si sarebbero potute sviluppare in un campionato diverso da quello inglese, perché è vero che in Inghilterra il calcio è un business come negli altri posti, però in Inghilterra c'è un atteggiamento di vita, di cuore nei confronti delle partite di calcio che rende possibile qualsiasi sogno, compreso quello dell'Leicester. Claudio, bellissimo! Claudio, man, you've done amazing for this club. We need you here in Leicester. You got to stay here. We've never seen anything like this before. It's incredible, and thank you for everything you've done so far. We'd like to thank you very much for all that you've done for the Leicester City Football Club since you came. La bellezza crudele del calcio è anche il fatto che le storie vanno riscritte, quindi c'è da pensare alla Champions League, alla campagna acquisti, ai giocatori che adesso sono delle star e che probabilmente verranno allettati dalle grandi squadre inglesi e europee. Però nel momento della vittoria ai dirigenti, ai calciatori, ai tifosi, a Claudio Ranieri, a tutta una città, a tutto un ambiente, il domani non interessa, è troppo lontano per rovinare una festa che Leicester aveva atteso da 132 anni. Claudio Ranieri, che ottiene il risultato più prestigioso della sua vita a 65 anni, seconda parte di un grande sogno, cioè vincere quando stai per ritirarti, per Claudio Ranieri è una rivincita contro tutti quelli che non hanno condiviso la sua idea di calcio, un calcio legato al divertimento, alla passione, legato alla compattezza di un gruppo che sa sorridere e lavorare sodo e soprattutto che in tre passaggi parte dalla sua porta e arriva alla porta avversaria. Non è un trionfo contro qualcuno, non ho pensieri negativi, non ho rancori personali, non appartengono alla mia cultura e al mio modo di essere. Il mio messaggio, rivolto soprattutto ai giovani, è che non bisogna mai arrendersi, anche se servono anni per arrivare ai risultati. Lo sport è come la vita, una cosa meravigliosa. La storia del Leicester e di Claudio Ranieri dimostra che nei sogni uno ci deve credere per tutta la vita, non solo quando è giovane, ma anche quando alcuni sogni sembrano passati per sempre. Sembra che il treno non debba più fermarsi alla tua stazione, e invece è proprio lì che devi combattere e dare ancora tutto quello che hai. Noi vi aspettiamo con altre storie, con altri colpi d'ala, come quello di tutta una città guidata da un italiano, Claudio Ranieri, che va a vincere lo scudetto in Inghilterra, in Premier League. Se voi conoscete altre storie che meritano di essere raccontate, seguitemi, interagite sul sito di Radio 24 o scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, senza dimenticare le mie pagine Facebook, Twitter e le pagine del Falco e del Gabbiano. Insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.